Allora, comunicazione multimediale, situazionisti, 20 gennaio 2012. Allora, questa è la raccolta più completa che sia mai apparsa in italiano di materiali sull'internazionale situazionista ed è la traduzione integrale di tutti e 12 i numeri che sono usciti dell'internazionale situazionista, cioè del bollettino, come si è era una pubblicata, insomma, rivista che si è chiamata in vario modo, ma prevalentemente bollettino dell'internazionale situazionista, insomma. E sono usciti, allora questo, il libro è stato, l'introduzione è datata a febbraio 93, ovviamente qualcosa era già uscito prima, sì, allora si chiamava International Situationist e sono 12 numeri usciti a Parigi fra il giugno del 1958 e il settembre del 1969, i primi 8 numeri uscirono come bollettino centrale edito dalle sezioni dell'internazionale situazionista. I numeri dal 9 al 9, 10 e 11 dovevano essere una rivista dedicata all'Europa occidentale, quindi ai situazionisti solo dell'Europa occidentale, perché erano pochissimi, ma erano diffusi più o meno un po' in tutta l'Europa. Mentre la zona scandinava e quella dell'Europa centrale avevano altre riviste. Il numero 12, che è l'ultimo, è uscito come rivista della sezione francese dell'internazionale situazionista. Quindi sono 12 bollettini, 12 numeri uno dietro l'altro, di cui erano state. Il libro è difficilissimo da consultare perché, no, giustamente, hanno lasciato una numerazione diversa di pagine per ogni bollettino, quindi ricomincia da zero. Allora, quando uno vuole, cita una cosa, dice, va bene, bollettino numero 8, ok, dove lo trovo il numero 8? Sì, qua c'è un indice, ma. Non so neanche, cioè, no, c'è un indice, sì. Notizie, formulari, sì, no, c'è un indice abbastanza, quindi uno se li trova nell'indice, numero 2, numero 3, ognuno che con la numerazione che diciamo riparte. E allora parliamo di questi, perché in realtà loro sono questo gruppo un po' bizzarro, un po' strano, ma molto influente nelle controculture insomma, degli anni 60, del primo dopoguerra, del secondo dopoguerra in Europa, e sono all'origine almeno di alcune delle pratiche di cui abbiamo detto che vogliamo parlare, delle pratiche di movimento, eccetera, eccetera. Per riassumere brevissimamente, c'è un libro, ci sono vari libri, tutti quanti, però purtroppo ormai, ripeto, in Italia di scarsa reperibilità. Comunque il testo più importante, probabilmente quello più completo sulla storia di questo movimento, è quello di Mirella Bandini, che si chiama L'estetico il politico, L'estetico il politico, e che è uscito da Costa e Nolan, anche questo negli anni 90, credo. Siccome ci sono diversi ragazzi che hanno già fatto delle tesi su questo argomento, so che hanno avuto difficoltà negli anni scorsi a trovarlo, però insomma è una roba che si trova tipo solo in qualche libreria che ce n'ha delle vecchie copie, eccetera, oppure perché l'editoria, anche questa enorme collezione internazionale situazionista, sì, non so neanche fare il conto delle pagine, perché non, comunque è uscita prima dell'euro, quindi c'è ancora il prezzo in lire, costava lire 37.000, che vorrebbe dire più o meno poca roba in euro, in realtà sarebbero più o meno 40 euro oggi, col cambio reale, non con quello formale. Anche di questo, una volta che si esaurisce la tiratura, non è detto che non c'è una grandissima richiesta, quindi non è che lo ristampano. Quindi so che questi qua, la casa editrice Nautilus esiste ancora, però evidentemente fa altre cose. Stampare un libro di questo tipo comunque ha dei costi, anche da un punto di vista materiale, abbastanza grossi, insomma, perché saranno 800-700 pagine, insomma. Allora, cerchiamo di ricostruire in breve, ci ricostruisco la storia di questo movimento. Diciamo, l'internazionale situazionista è stata fondata, se non vado errato, è stata costituita nel giugno, insomma nell'estate del 1958, sì, perché è stata fondata in Italia, perché c'era un certo numero di aderenti italiani, i quali però se ne andarono poi presto, adesso vediamo, è una storia complicatissima questa. Comunque diciamo, i nuclei principali che hanno fondato questo gruppo erano da un lato alcuni quasi in gran parte francesi, provenienti da una cosa che si chiamava Internazionale Lettrista, che era un movimento di lettrista. Lettrista è una parola che non esiste in francese, quindi è un neologismo, neanche in francese esiste. Però vabbè, era stato fondato da un rumeno esule in Francia che si chiamava Isidore Isou, era un movimento di avanguardia artistica, una specie di prolungamento delle avanguardie storiche che c'erano state già 30 anni prima, insomma negli anni 10-20 diciamo del secolo, ma negli anni 40 era stato fondato questo gruppo, il quale più o meno teorizzava già una qualche contaminazione tra attività artistica. Questo Isura, uno faceva principalmente poesia visiva, cioè robe, queste poesie scritte, un mezzo matto bisogna dire, insomma, non questo Isù. Però avevano anche già, c'era già una prima, un primo interesse alle lotte sociali, quindi a una tematica politica, cioè, poi c'è stata la guerra mondiale, eccetera. Alcuni di questi lettristi, li possiamo chiamare, no? Militanti, insomma, militanti aderenti a questo gruppo, era un gruppo prevalentemente culturale di questa internazionale lettrista, erano però scontenti del modo in cui questo Isù, che poi appunto era un matto, gestiva questo movimento, quindi a un certo punto decisero di andarsene. Tra questi, quello più importante ovviamente, si chiamava Guy Debord, sai come si scrive, quindi diciamo Debord era un Guy Debord, era un ex lettrista, quindi questo Debord, che si porta dietro, non so, due, tre, ma parliamo, cioè, stiamo parlando dell'ordine di unità, cioè non stiamo parlando di grandi movimenti, cioè i costurrealisti erano molti di più, per dire, negli anni 20, 30, insomma, e questi erano pochi, erano meno, però erano molto attivi, eccetera. Allora, diciamo, uno, questa è una prima componente. La seconda componente invece viene più direttamente dalle arti visive, è un gruppo più internazionale, un movimento che si era fondato credo durante la guerra o subito dopo, insomma, la guerra mondiale. E si chiamava Cobra. Cobra è semplicemente l'iniziale delle tre città da cui venivano la maggior parte di queste persone, cioè Copenhagen, Bruxelles e Amsterdam. Quindi era un gruppo di danesi, olandesi, poi c'era anche questa gente più là, che erano, Copenhagen, Bruxelles, Amsterdam, fondano questo gruppo Cobra, che è un gruppo di artisti, pittori, architetti, eccetera. I più importanti fra questi sono un signore danese che si chiamava Asger Jorn, un altro olandese che si faceva chiamare Constant, in realtà Constant era il suo nome di battesimo, poi aveva un cognome olandese complicatissimo, New Wave, che non mi ricordo mai, cioè magari si trova qua. C'erano sti due, poi chi c'era? Sì, principalmente erano questi due, i due Constant. Constant, con la N, Constant, che era un architetto. Invece questo Adrian Jorn era un pittore. Poi c'erano alcune altre componenti, tra cui una componente, un po', poi altre due, chiamiamole, diciamo componenti, cioè c'erano diversi italiani radunati insieme con altri sempre di origine artistica, intorno ad un movimento che si era chiamato Movimento per una Bauhaus Immaginista. Allora, la Bauhaus, sai cos'è? Era una era questa vecchia scuola di arte, design, tedesca, eccetera, basata su di un astratto e rigorosissimo funzionalismo, eccetera. Quindi questi hanno preso il nome Bauhaus, ma erano tutto il contrario della Bauhaus. Erano dei pittori italiani, il più importante dei quali si chiamava Pinot Gallizio, abitante, credo che venisse da Alba, dalla città piemontese di Alba, ma stava in Liguria, in un paesino sopra Imperia o Imperia, non so. E lui si chiamava Pinot Gallizio. Poi c'era un altro personaggio che è ben noto, che è Enrico Bai. Erano tutti giovani e insomma facevano della pittura un po' strana, eccetera, però anche questi con un interesse comunque, insomma, no? Sempre, che poi insomma vediamo che magari presto scoprirono presto di andare poco d'accordo, però insomma tutti questi insieme si mettono insieme, allora insomma De Bor, che era comunque il più influente fra questi fino dall'inizio, è stato quello che ha preso in mano un po' le redini, era quello serio. Lui e un'altra persona importante, però credo che, non so se veniva dai, diciamo, lettristi, ma però è l'unico altro nome che poi è rimasto nell'iniziazione del situazionista, era quello di Raoul Van Eygen. Raoul con A-U, Raoul Van Eygen si scrive con la V normale, Van Eygen, c'è ogni tanto la università, che era di origine belga, ma insomma uno che scrive in francese, insomma. Van Eygen. In realtà i nomi di Van Eygen e di De Bor. Poi c'era un italiano che si chiamava, adesso il nome di battesimo non lo ricordo, che era Gianfranco Sanguinetti, mi sembra Gianfranco, però sono dubbi, Sanguinetti con due T, il quale fu uno di quelli che rimase sino all'ultimo nell'internazionale. L'internazionale però aveva, poi dopo chiaramente il nome di De Bor esce, insomma, c'è anche in alcuni dei primi bollettini di questa. Però insomma loro cercavano di fare tutto in, come dire, di costruire un'elaborazione collettiva, eccetera. Però ecco, per esempio qua si trova, vedi, tesi sulla rivoluzione culturale numero uno, si trova la firma di De Bor. Ah no, è senza lei finale, guarda un po' che io penso che metto lei finale per togliere. De Bor. Poi Asger Mjorn, vedi. Le firme ci sono. Però molte cose, poi alcuni sono pseudonimi, Michel Bernstein. Altre cose sono scritte anonime, sono comunque direttore G. e De Bor, Guy e la E, non mi ricordo più cosa stava, De Bor, qui siamo già al numero 2, André Franchi, sono vari, diciamo, nomi, terza conferenza internazionale a Monaco. Qui non mi ricordo più se fanno vedere se c'è una foto. I delegati, ecco, vedi. E quindi questa cosa, adesso non li so riconoscere, comunque qua c'è De Bor, qua sicuramente c'è anche questo Pinot Gallizio. Insomma, comunque, in fretta, cioè nel giro di meno di 2 anni, quindi è un gruppo di persone, un'organizzazione, insomma, la quale, allora, perché si chiamano internazionale? Già nel nome che scelgono c'è ovviamente un riferimento alla storia politica, alle due, anzi tre, quattro internazionali in cui si sono organizzati, si erano organizzati fra 800 e 900 i partiti o partitini o gruppetti, diciamo legati al movimento operaio e all'ideologia socialista o comunista, quindi la prima internazionale, quella fondata da Marx e da Bakunin insieme, che poi si ruppe, insomma si sciolse, o comunque dopo la Comune di Parigi nel 1871, la seconda internazionale che fu a lungo l'organizzazione di tutti i partiti socialisti europei fra il 1880 e il 1917, quando poi c'è la scissione dei partiti comunisti, quando fanno la rivoluzione in Russia, eccetera, quindi Lenin e così via, che fondano invece la terza internazionale comunista e poi quella, insomma, più ridicola di tutte, cioè ridicola nel senso che non ha mai avuto dei grossi partiti, che era la quarta internazionale fondata da Trotsky dopo che era rotto con Stalin, era andato in esilio, eccetera, ma che non ebbe mai è stata sempre un'organizzazione di piccolissimi gruppetti, eccetera. Allora, però questi situazionisti erano ancora più piccoli ovviamente dei trotskisti, però loro non erano nessuna di queste cose, avevano un riferimento evidentemente a una teoria rivoluzionaria o all'aspirazione di costituire una teoria rivoluzionaria. Il marxismo c'entrava molto nelle loro cose, insomma, Debord sempre più spesso allora, in una primissima fase, chiamiamole le due anime, insomma, cioè l'anima artistica e l'anima politica, insomma, di questo movimento convivono. Ma molto presto si accorgono di essere, insomma, come dire, incompatibili. E quindi comincia una pratica che fa a pugni con la loro, come dire, con la loro intenzione di essere un nuovo gruppo, anzi l'unico gruppo veramente rivoluzionario, eccetera, perché in realtà utilizzano le stesse tecniche che usavano gli stalinisti, cioè di espellere la gente che non era d'accordo. Bisogna dire che in questo avevano un precedente, non è una cosa tanto nuova neanche questa. Il precedente si chiamava surrealismo diciamo, l'antecedente di Debord si chiamava André Breton. Il surrealismo ha avuto una storia del genere. Il surrealismo è stata l'ultima delle grandi avanguardie dei primi del secolo, no? Dei primi del secolo XX. L'ultima perché il surrealismo è arrivato quando tutte le più importanti, no? Insomma, dal cubismo al Dada, al futurismo, eccetera, erano già belle che finite. Verso la metà degli anni 20 Breton fonda questo gruppo che chiama appunto Surrealisti, Surrealismo, però siccome le condizioni erano maturate, il surrealismo ha obiettivamente una audience, un appeal verso molta gente, cioè sono molti gli intellettuali, eccetera. Pittori, scrittori, certo, c'è sempre gente, insomma, diciamo intellettuali, insomma, gente che lavora con la penna o con il pennello all'epoca. Però tutti quanti convinti, perché il surrealismo, prima dei situazionisti e in modo molto più diffuso, insomma, fu l'avanguardia artistica che più chiaramente di altre teorizzò un impegno politico, un impegno dell'artista dentro le lotte sociali, dentro la politica. In realtà non furono i primi, diciamo, l'antecedente più chiaro di questo atteggiamento surrealista fu quello del gruppo dei Dada berlinesi, non di tutto il Dada zurighese con Sultanzara, eccetera, non era così interessato, diciamo, alle lotte politiche. Ma i Dada berlinesi erano invece gente tosta e quindi erano molto più politici, insomma, e poi infatti ebbero tutti, insomma, dei guai con lo Stato, insomma, tedesco, prussiano, eccetera, eccetera. I surrealisti ripresero questa cosa e quindi nei primi anni, diciamo nella seconda metà degli anni 20, tra il 25 e il 35, tanto per capire, dentro le file del movimento surrealista passarono un sacco di persone, la gran parte degli intellettuali che hanno contato qualcosa da un certo punto di vista, insomma, diciamo, che hanno espresso un pensiero radicale nella Francia, in particolare perché era un movimento francese principalmente, nella Francia degli anni 20, fine anni 20, inizio anni 30, passarono per i surrealisti. Diciamo, i nomi sono presto fatti, Antonin Artaud è stato surrealista, Georges Bataille è stato surrealista, Klossowski, come si chiamava il nome, non ricordo, Klossowski era uno pseudonimo, ma insomma, no, Klossowski era il suo nome vero. Klossowski è stato surrealista, un sacco di questi intellettuali. Però rapidamente i più brillanti tra questi intellettuali entrarono dopo un po' in conflitto con il padre del movimento, con il capo che era André Breton, eccetera, il quale dopodiché li espelleva lui, cioè diceva: allora vai fuori, non sei più come surrealista. Artaud diresse per 2 anni la rivista che si chiama, che si chiamava Revolution Surrealiste. Non è che fosse uno di insomma secondo piano, era molto giovane ma era brillante, eccetera. Ebbe una serie di insomma di sì, di punti di vista differenti ovviamente con Breton, e cioè Breton lo fece fuori. Anche la gran parte dei poeti della prima ora, il più importante di quali è lui, Aragon, poi c'erano state donne anche dentro perché si fregavano le mogli l'un con l'altro, questa era la cosa. Per esempio Dalì, i pittori, Dalì, Max Ernst, Magritte in posizione più defilata, cioè i surrealisti di quel periodo, in realtà stanno poco dentro dentro il movimento surrealista, perché spesso vengono espulsi. Bene, nell'internazionale situazionista succede più o meno lo stesso, con qualche decennio di distanza, cioè c'è una politica di Debord, di chiamiamola purezza insomma ideologica, eccetera, eccetera. Insomma, per tornare a noi, la gran parte dei fondatori dell'internazionale situazionista nel 58, fra il 1960 e il 1962, è già fuori dal movimento, e il movimento si restringe ulteriormente, però naturalmente vengono presi arrivano dei nuovi militanti, ma sempre in modo molto, loro erano rigidissimi era veramente come fosse un piccolo partito in cui loro stabilivano esattamente la distinzione tra chi era militante del partito, quindi faceva la vita di questo partito, piccolo partito, chi era un suo partito, insomma, ripeto, cultural politico, cioè tutte e due queste caratteristiche, ma era. E poi c'erano i simpatizzanti, quelli che stavano fuori, che magari scrivevano sul bollettino, però non erano militanti, non avevano meno doveri, ma anche meno diritti del militante. Insomma. Quindi è una vita un po' complicata. E fecero molto scalpore, naturalmente, anche perché poi non facevano delle attività pubbliche, cioè tranne pubblicare queste robe o fare delle cose, non c'erano realtà pubbliche molto molto riconoscibili, non si sapeva chi erano questi, tranne i nomi che uscivano, insomma, chiaramente i nomi come quello di Deboro, come quello di Van Eyghem, eccetera, si sapeva. In genere tutti questi pittori, sia Asger Njorn, eccetera, però con una cosa buffa, curiosa, per esempio Asger Njorn era uno dei fondatori, era molto amico di Debord, eccetera, eccetera, però dopo un po' lui teorizzava comunque che voleva continuare a dipingere in maniera rivoluzionaria, secondo lui, e a un certo punto Debord gli dice no, ma non serve nulla, dice basta, fuori, ti caccio fuori. Però per esempio Asger Njorn, per tutta la vita, per quasi tutta la vita, insomma, pur essendo stato espulso dall'internazionale, continuò a sostenerli economicamente. C'è chi scrive, qualcuno sostiene che in realtà l'internazionale, cioè Debord, i statunitensi non sarebbero sopravvissuti, lui ogni tanto dice questo, faccio questo quadro qua, va bene, questo quadro qua ve lo do a voi, oppure vi do i soldi direttamente, lo vendo, vi do i soldi. Cioè lui una parte dell'attività artistica di Jorn, anche dopo che è stato espulso, era dedicata a, perché comunque evidentemente lui era legato affettivamente, era dedicata a sostenere economicamente la vita dell'internazionale situazionista. Quindi si può dire che nel corso degli anni 60, in qualche modo, i situazionisti accentuano la loro componente, il loro impegno di tipo politico, e diminuisce per forza di cose la loro attività, virgolette, artistica, specialmente perché gli artisti non c'erano più dentro al movimento, quindi che dovevano fare. Nel 1967 esce il libro più importante di Guy Debord, che si chiama La società di spettacolo, la società dello spettacolo, nel quale Debord analizza questa che lui chiama la società dello spettacolo, da Allora, il termine, la società dello spettacolo è stato equivocato, perché poi adesso molti ne parlano, eccetera, ma ne parlano in maniera superficiale. La società dello spettacolo non vuol dire la televisione, che all'epoca non c'era ancora, stava appena nascendo, nel 67, insomma, sì, c'era nei primi, no, era il primo decennio più o meno della televisione in Europa. Non vuol dire che la gente dà spettacolo, cioè che la società è basata su un'attività di divertimento chiamata spettacolo. Quando nel libro la società dello spettacolo, diciamo, De Bort cerca di definire questa cosa che lui chiama spettacolo, dice che lui chiama lo spettacolo semplicemente la forma, dice. Lo spettacolo sono i rapporti sociali alienati, reificati in forma di immagine. Ecco perché ci interessa anche a noi, perché è un, poi nelle prossime volte magari partiremo un po' più da lontano e vedremo questo rapporto tra parola e immagine, come è stato questo, diciamo, vedremo nell'altra parte del corso, insomma, non in questa, ma poi le cose si connetteranno. Quindi lo spettacolo è semplicemente una specifica forma dei rapporti sociali, cioè dei rapporti tra le persone, che nella società capitalistica, nel capitalismo, loro, diciamo, l'impianto di tutto il lavoro di De Bort è un impianto marxista, insomma, c'è, diciamo, l'analisi marxista classica dei rapporti di produzione, della formazione economico-sociale, tutta la terminologia è chiaramente marxista, però c'è questa innovazione, cioè lui dice, in questa fase del capitalismo, i rapporti sociali si presentano reificati in forma di, diciamo, immagine. Questo è lo spettacolo, secondo lui. La reificazione, cioè la oggettivizzazione, la alienazione, quindi, dei rapporti sociali in forma di immagini. Nello stesso anno, nel 1967, e qui adesso veniamo alle cose che ci interessano di più, diciamo, a noi, succede una cosa molto bizzarra. Nella città francese di Strasburgo, che come tu sai è al confine tra la Francia e la Germania, c'era un organismo studentesco all'università eletto, ma di quelli burocratizzati, cioè c'erano anche quando ero piccolo io, insomma, erano gli organismi, diciamo, rappresentativi. Siamo prima, siamo alla fine del 67, quindi pensa che anni sono. Vuoi che chiedi una cosa? Certo? Perché sei. Vedo che c'hai. Sì, c'hai solo una posizione in cui puoi stare. No, di più. E se no sei sempre sotto il sole. Qua. Sì, mi pare che sei a posto. Allora, insomma, succede che in questo organismo studentesco dell'Università di Strasburgo, un gruppo di studenti situazionisti o simpatizzanti, in realtà ce n'era uno solo membro a pieno titolo dell'internazionale, che c'era un nome che adesso non mi ricordo, un nome di tipo algerino, doveva essere un tunisino, un algerino che si chiamava in Francia, lui era un militante, e poi c'erano una serie di simpatizzanti. Questi si trovano a gestire l'organismo rappresentativo studentesco, allora decidono di fare questa cosa. Presentano un progetto all'università dicendo: vogliamo fare una guida allo studente, così dice insomma, dice finanziateci. Presentano ovviamente un progetto fasullo perché poi fanno tutt'altro. Quindi piano i soldi dall'università e invece di stampare la guida allo studente stampano un bellissimo pamphlet politico in cui espongono le tesi situazioniste sulla scuola, dicono che quindi fanno un grande attacco alla società capitalista, al modo di educare del capitale, eccetera, e lo chiamano della miseria nell'ambiente studentesco. Ovviamente l'università non controlla, quindi questi stampano la cosa, questo succede a, non so, mettiamo durante, insomma, alla ripresa dell'anno accademico 67-68, l'inizio accademico, ci ritrovano stampate migliaia di opuscoli a spese dell'università che contiene un attacco virulento e cattivissimo a tutta l'università. Allora, ovviamente c'è uno scandalo, vabbè. Questo però dà una certa, come dire, visibilità, insomma, una certa notorietà, ecco, al gruppo dei, come dire, situazionisti, i quali però, sempre come al solito, credo proprio pochi mesi dopo, addirittura poche settimane dopo questa cosa, questi studenti vengono tutti espulsi perché c'era, insomma, Deborah aveva una concezione molto, molto rigida dei rapporti, quindi cioè, no, c'erano gli operai, non c'erano gli studenti, che no, gli studenti erano considerati come... Quindi gli unici che avevano fatto qualche cosa, e questo è un paradosso, pochi mesi dopo all'Università della Sorbona, all'Università parigina della Sorbona, che all'epoca era l'unica università che c'era a Parigi, ma era ovviamente un'università con una tradizione molto antica, eccetera, scoppia il studentesco. C'è l'occupazione, c'è il maggio francese, insomma, nel maggio francese i situazionisti si trovano anche lì, studenti o non studenti a volte, con, diciamo, influenzati dalle posizioni situazioniste, insieme con i trotschisti e con altri gruppetti politici, sempre destra e sinistra, maoisti, eccetera, insomma, si trovano a essere al centro di queste lotte e quindi si forma un po'. Poi c'è un po' di racconto che è un po', insomma, mitico, non è poi che loro fossero così importanti in realtà, però siccome alcune un po' del loro stile, come dire, dissacratorio, fatto tutto di frasi taglienti, aforismi, cose, eccetera, passa un po' nel movimento, alcuni degli slogan per cui poi il maggio parigino è rimasto più famoso nel mondo, l'immaginazione al potere, vietato calpestare le idee, vietato vietare, tutte queste robe qua, insomma, che poi vanno sui manifesti del maggio 68, in parte possono essere considerati di origine situazionista. Probabilmente, ripeto, la presenza, l'influenza reale dei situazionisti, cioè la presenza organizzativa reale dei situazionisti nel comitato di agitazione della Sorbona, che fu l'organismo, diciamo, questa specie di mini assemblea che gestì nel giro, poi perché dura poco il maggio francese, durò 2-3 mesi, insomma, poi dopo già in luglio non c'è più nulla, da un punto di vista, cioè in Italia le lotte furono molto più lunga durata, durarono molto più a lungo, ma in tutto il resto del mondo di fatto, poi insomma sono anche momenti separati, negli Stati Uniti la punta più alta del movimento era stata nel 63-64, quindi prima del 68, il movimento contro la guerra in Vietnam, eccetera, il movimento per la libertà di parola, è molto differenziato nel mondo questa... Il tuo, no? Il mio, neanche. Sono state molto differenziati i tempi di queste grandi lotte studentesche che comunque ci sono state. Poi, diciamo, noi nella ricostruzione diciamo il 68, perché fu obiettivamente l'anno in cui si concentrarono maggiori cose, insomma, soprattutto in Europa, e l'anno dopo in Estremo Oriente, sia in Cina che in Giappone, soprattutto in Giappone c'è un grande movimento studentesco nel 69 più proprio che nel 68, però ovviamente il 68 prosegue anche nel 68. Però in realtà il paese d'Europa in cui, diciamo, le lotte sono durate di più, hanno avuto maggiore durata, è stata chiaramente l'Italia, per una serie di appunto motivi. In Francia c'è questa grande fiammata del maggio, che ovviamente fu molto importante, eccetera. In Germania anche, in Germania l'onda più alta del movimento studentesco si apre nel 67 e 68, però poi nel 68 uno squilibrato spara e insomma, ferisce mortalmente il leader del movimento studentesco tedesco, che era una persona molto intelligente, molto chiamata Rudi Dutschke, e questo diventa paralizzato. Insomma, adesso non è che chiaramente il movimento muore perché viene colpita una persona, però insomma, se gli togli una delle teste più brillanti che c'erano, insomma, poi c'è una. E poi c'è tutta la questione, ovviamente, adesso non è che dobbiamo fare la storia dei movimenti studenteschi, però tanto per capire un po' il clima, il panorama, eccetera, eccetera. Allora, per tornare ai situazionisti, come dire, quindi diciamo la loro influenza, cioè la loro presenza organizzativa nel maggio 68 parigino è stata forse sopravvalutata. Nel senso che insomma, si è detto che, però l'influenza delle loro idee obiettivamente è stata forte, anche in gente che magari non erano né militanti né simpatizzanti né direttamente in contatto con situazionisti, anche perché poi si poteva sapere poco se tu parlavi con uno, non è detto che tu cioè, che tu eri sicura che questo fosse un situazionista con uno o una, insomma, erano tutti maschi, gran parte, femmine poche. C'era sempre questo pregiudizio, insomma, anche in quei movimenti lì, in cui, perché, sì, che non era una bella cosa, perché i situazionisti comunque erano comunque coperti, si coprivano, cioè non è che dicevano, no, io sono situazionista, no, cioè, era quasi una piccola setta segreta da un certo punto di vista, quindi non si sapeva chi era, chi non fossero, chi fossero. Magari tanta gente ha parlato che ne so, con Guy Debord, e se non conosceva, se non sapeva chi era Debord, questo non è che gli diceva sì, sono situazionista, cioè ovviamente dalle cose che uno diceva era. Vabbè, comunque fra il 70 e il 72, mi sembra che nel 72 formalmente addirittura l'internazionale viene sciolta. L'internazionale situazionista, cioè perché Debord considera che la missione storica di quel partito, quella particolare forma organizzativa sia ormai esaurita. E naturalmente questo non vuol dire che i singoli situazionisti o ex situazionisti non continuino a fare le cose che hanno fatto, insomma. Allora, andiamo a vedere, quindi adesso ti ho dato una specie di quadro, di piccolo quadro generale della, così, un po' di storia in breve, spicciola del, come dire, movimento. Ti ho dato anche qualche informazione su alcune delle loro tesi, diciamo, principali. Ma qual è stata diciamo, l'influenza più duratura, più lunga, insomma, del situazionismo su alcune pratiche, ripeto, che sono pratiche di confine tra le pratiche artistiche e quelle, diciamo, sociali. E sta in alcune cose teorizzate addirittura sino dall'inizio, e i cui nomi sono. Allora, prendiamoli così, perché sono quasi tutti nomi che sono contenuti già nel primo bollettino dell'Internazionale, quindi numero 1, giugno 1958. Direttore Guy Debord, redazione a Parigi, comitato, c'è un comitato di redazione, vedi che compaiono dei nomi strani, Mohamed Daou, quindi c'è uno che ha un nome, non si sa se sia uno pseudonimo, questo non ti so dire. Poi Giuseppe Pinot Gallizio, che invece sappiamo chi è perché è uno dei fondatori, in realtà, ed è questo pittore italiano che viveva ad Imperia di Alba, e poi un tale Maurice Vicaire, che è probabilmente un architetto, se non vado errato, che poi però scompare. Quindi questi sono i tre nomi che figurano come comitato di diciamo, redazione. Questo è il primo numero. E comincia con delle note editoriali. Guarda caso, la prima notte si titola Amara vittoria del surrealismo. Quindi, no, come dire, non sono ancora nati, e già dichiarano, o sono appena nati e già, come dire, dichiarano di avere vinto, ma di avere vinto in maniera amara, cioè chissà cosa vuol dire. Cioè, questo sarà sempre tipico della, del, diciamo, dell'approccio, come dire, situazionista alle, alle, diciamo, al mondo e alla loro attività. Una sorta di pessimismo molto forte, no? Connaturato però, cioè combinato però con una, come dire, con una rivendicazione a volte molto spavalda e a volte anche addirittura proprio auto celebrativa in maniera sconveniente, insomma, no? Cioè, abbiamo vinto, però. E però questo è il loro stile ed è quello che li ha maggiormente. Allora, dopo questa cosa, nel capitolo, già nel primo numero, troviamo, allora, intanto una spiegazione del nome. Perché si chiamano situazionisti? Uno dei testi più importanti di Debord, precedente alla fondazione dell'Internazionale, quindi credo sia dell'anno prima, 1957, si chiamava Rapporto sulla costruzione di o delle situazioni. Rapport sur la construction des situations. Vale la pena forse di andare a prendere, allora, e qui compare nel primo numero del, come dire, bollettino, uno scritto non firmato che si intitola Problemi preliminari alla costruzione di una situazione, che però riprende in parte questo scritto di Debord dell'anno prima. Alla fine di questo articolo ci sono una serie, cioè una pagina e mezzo, poco più di una pagina, di definizioni, e qua troviamo i termini più importanti dell'approccio situazionista e quelli che hanno avuto maggiore influenza sia negli anni di cui ci sto parlando adesso, quindi anni 50-60, influenza, ripeto, sempre in ambienti molto ristretti, non è che parliamo, fino al 68, come dire, i situazionisti non hanno avuto un grande pubblico. Il 68 è stato il momento in cui le loro teorie, le loro elaborazioni si sono trovate ad avere un pubblico, una audience, un gruppo di, cioè, gruppi di, cioè, persone a cui potersi rivolgere improvvisamente enorme, cioè un intero movimento studentesco, quindi assemblee studentesche di centinaia, migliaia di persone, eccetera, eccetera. E quindi lì, proprio però per la loro diffidenza in realtà verso i movimenti di massa, perché stranamente loro teorizzavano, Debord principalmente teorizzava, certo, che bisognava costruire i movimenti, che si poteva fare, bisognava fare una rivoluzione, eccetera, eccetera, ma la loro idea di rivoluzione era estremamente, come dire, esigente. Cioè, Debord diceva che per fare la rivoluzione ci voleva un aumento di coscienza complessiva, eccetera, che loro non vedevano mai. Cioè, erano in questo senso, c'era una certa somiglianza con una parte del movimento comunista, diciamo, internazionale, quello più duro, più estremista, legato al fondatore del Partito Comunista Italiano, che era Bordiga, Amedeo Bordiga, un intellettuale napoletano, il quale però poi era stato nei primi anni dopo, parliamo del 1920-21, quindi anni molto molto precedenti, no? Il Partito Comunista Italiano è stato fondato da una componente, diciamo, dei socialisti molto molto piccola, che comprendeva i seguaci di Bordiga da un lato e poi i seguaci del gruppo dell'Ordine Nuovo di Gramsci a Torino. Gramsci era un sardo ma era emigrato a Torino. Nei primi 2-3 anni Bordiga è quello che ha la maggioranza nel Partito Comunista, poi nel 1926 fanno un congresso in cui Bordiga rompe con Lenin, anche con la Russia, eccetera, eccetera, e Gramsci prende la guida del partito per poco tempo, perché poi viene imprigionato. La storia del Partito Comunista da quel momento in poi è una storia tutta, diciamo, il piccolo gruppo di Bordiga esce, ma loro sono i veri fondatori, insomma, per 2-3 anni. Si crea così una componente all'interno del movimento comunista molto molto piccola, chiamata appunto bordighismo dal nome del, appunto, del fondatore del Partito Comunista d'Italia, che era Amedeo Bordiga, sì, che era un ingegnere napoletano molto. Diciamo, questo bordighismo era su quello che, diciamo, la posizione dei bordighisti era, adesso te la faccio diciamo, in modo molto semplificato, ma insomma era quella, di avere delle concezioni della rivoluzione, delle condizioni per fare la loro concezione delle condizioni per poter fare la rivoluzione. Era quella di una coscienza rivoluzionaria delle masse molto alta. Se non c'è questa coscienza rivoluzionaria, dicevano i bordighisti, qualsiasi atto anche rivoluzionario non porterà alla vera rivoluzione, cioè alla presa del potere da parte del proletariato, ma sarà recuperata dalle direzioni opportuniste, socialdemocratici, comunisti, diciamo virgolette buoni o comunque moderati, eccetera, eccetera, e quindi non serviranno. Tanto vale non fare nulla, è meglio non fare nulla per certi versi. Per certi versi i situazionisti ebbero una posizione, per certi versi, simile a quella bordighista da un certo punto di vista, anche se però poi lo svolgersi degli eventi li portò invece ad avere dei ruoli come nel 68, nel maggio, come nel francese, in cui a un certo punto sembrava che invece i movimenti di massa seguissero le loro intuizioni, le loro idee, eccetera. Questo creò una serie di scompensi all'interno, perché si può notare il gruppo situazionista non era attrezzato per essere una vera direzione di movimento di massa, rimase sempre, fino alla fine, una componente, un gruppo di intellettuali, i quali però avevano. Allora, torniamo a noi, cioè veniamo alla questione del nome. Loro si chiamano situazionisti perché sostengono che, diciamo, il movimento rivoluzionario e quindi gli artisti, che secondo loro sono una parte di questo movimento rivoluzionario, deve operare sulla base di quelle che loro chiamano le situazioni costruite. Leggiamo quindi qual è la definizione dal primo numero del bollettino dell'Internazionale di situazione costruita. Situazione costruita, dice, momento della vita concretamente e deliberatamente costruito mediante l'organizzazione collettiva di un ambiente unitario e di un gioco di avvenimenti. Momento della vita concretamente e deliberatamente costruito, quindi è qualcosa di, potremmo dire, quasi di falso, di artificiale, no? Una situazione, costruire una situazione vuol dire organizzare un momento della vita in modo, diciamo, concreto, organizzando collettivamente un ambiente unitario e un gioco di avvenimenti. È importante questo termine gioco, no? Ci sono gli avvenimenti, certo, che bisogna, diciamo, creare. E quindi poi sono quelle che sono interessanti, sono i due punti che vengono dopo. Situazionista, dice, chi è un situazionista? Si chiama situazionista, dice, ciò che si riferisce alla teoria e all'attività pratica di una costruzione di situazioni. Poi si chiama situazionista anche colui che si adopera a costruire delle situazioni, e in ultimo si chiama situazionista un membro dell'Internazionale Situazionista, perché ovviamente abbiamo fondato questa organizzazione apposta per creare le situazioni. Subito dopo c'è il termine situazionismo. Il situazionismo viene definito come un vocabolo privo di senso. Perché? Sembra un paradosso, ma non è così. Forgiato abusivamente derivandolo dal termine precedente. Non esiste situazionismo, ciò che significherebbe una dottrina di interpretazione dei fatti esistenti. La nozione di situazionismo è evidentemente concepita dagli antisituazionisti. Quindi loro concepiscono, con una lettura molto un po' dogmatica per certi versi, del punto di vista diciamo di Marx, dice, si può essere situazionisti, cioè si possono creare situazioni, ma non si può fare una teoria del situazionismo, cioè di questa costruzione di situazioni. Nel manifesto dei comunisti scritto da Marx ed Engels nel 1848, quindi quando c'erano in Europa i grandi movimenti di, diciamo, che però non erano proletari, perché il proletariato era ancora in formazione, era ancora molto piccolo, molto debole, ma c'era già. In questo testo i Marx ed Engels danno una definizione di comunismo che poi è rimasta celebre e famosa e che ha creato discussioni a non finire. Il comunismo, scrivono Marx ed Engels in quel testo, quindi di 100 anni prima, il comunismo è il movimento che abolisce lo stato di cose presenti. Il comunismo è il movimento che abolisce lo stato di cose presenti. Dire una cosa di questo tipo, che cosa significa? Significa dire che il comunismo è un movimento, quindi se il comunismo è un movimento non può essere una dottrina, no? È un movimento. Quando delle persone si mettono insieme e vogliono abolire, cioè cambiare, cioè distruggere, abolire vuol dire distruggere il modo in cui stanno le cose, a prescindere da quello che poi si costruirà dopo, insomma, no? Quello è il comunismo, secondo loro. È una concezione che poi molti hanno accusato di essere movimentista. Poi nella sua vita Marx ha anche costruito dei partiti, certo, dei piccoli partiti, insomma, i primi partiti operai. Sì. Però questa, se noi vogliamo restare fedeli a questa definizione di comunismo, non possiamo dire che il comunismo sia una dottrina, sia una teoria, no. Deve essere un movimento che abolisce lo stato di cose presenti. In qualche modo questo rifiuto di... Ciao caro, bene tu? In qualche modo questo rifiuto di Debord di concepire qualcosa chiamato situazionismo è una derivazione da questa famosa formulazione di Marx ed Engels. Perché lui dice, non si può parlare di situazionismo, dice, ci sono i situazionisti, ma noi non sappiamo bene ancora a che cosa porterà la creazione di queste situazioni, insomma, no? Quindi comunque spero che sia chiaro il senso e i limiti con i quali loro si danno questo nome, internazionale situazionista. Il che non vuol dire che ci sia una teoria situazionista. La teoria, Debord disse sempre, è quella marxista, io non faccio altro che applicarla al comune. Quindi non c'è un situazionismo, insomma, nel senso come ci può essere. Come non c'è una teoria comunista e il comunismo è un movimento, così l'unico situazionismo possibile, sembra dire Debord, è l'azione dei situazionisti, cioè l'azione concreta di creazione di situazioni. Ora, come si creano queste, situazioni? Andiamo a vedere qual era la loro definizione. Momento della vita concretamente e deliberatamente costruito mediante l'organizzazione collettiva di un ambiente unitario. Quindi vuol dire che ci sarà dentro la costruzione di situazioni un ambiente unitario, quindi vuol dire che ovviamente c'è un certo modo di comportarsi delle persone, però ci sarà anche un ambiente, quindi ci sarà una componente di tipo ambientale. Ora, che cos'è un ambiente per gli esseri umani? Principalmente è un insieme di artefatti, cioè di cose costruite, costruite, gestite, eccetera, dagli esseri umani. Tra queste cose costruite dagli esseri umani nelle quali si vive, alcune delle più importanti sono evidentemente i luoghi in cui ci si muove, si abita, cioè insomma le case. Un insieme di case si chiama città. È chiaro che una componente importante del pensiero situazionista sarà una sorta di urbanismo, di urbanistica, di concezione della città o di rapporto tra gli esseri umani e il proprio ambiente. Ed ecco infatti il primo misterioso termine che compare dopo il termine situazionismo in questa raccolta di definizioni. Il termine è psicogeografia. Psicogeografia. Come è definita la psicogeografia? Studio degli effetti precisi dell'ambiente geografico, disposto coscientemente o meno, può anche non essere consapevole, certo, quindi studio degli effetti precisi dell'ambiente geografico che agisce direttamente sul comportamento affettivo degli individui. Si vedrà poi dalle loro pratiche psicogeografiche che loro per geografia intendono non certo la geografia naturale, non certo fiumi, monti, eccetera, ma l'ambiente, insomma, diciamo, la geografia antropica, antropizzata, quindi la città, fondamentalmente, l'insieme delle cose. E infatti definiscono psicogeografico, relativo alla psicogeografia, ciò che manifesta l'azione diretta dell'ambiente geografico sull'affettività, ciò che manifesta l'azione diretta dell'ambiente geografico sull'affettività. Loro dicono, è una cosa banale per certi versi, ma molto probabilmente per l'epoca era abbastanza innovativo dire, gli ambienti hanno una influenza sui nostri stati d'animo, sui nostri affetti, sulle nostre, quindi c'è una influenza affettiva. E questa influenza, poi la conseguenza sarà che per come sono costruiti da un certo punto di vista gli ambienti geografici, diciamo gli ambienti della geografia antropica, cioè le città, detto fuori, per come sono costruite, essendo costruite in un ambiente capitalistico, eccetera, avranno un'influenza, chiamiamola insomma negativa, o comunque tenderanno a mantenere gli esseri umani all'interno di questo tipo di società. Però è possibile, evidentemente per i situazionisti, compiere delle azioni che rovescino questo, diciamo, sistema, o che facciano emergere delle possibili, dei potenziali effetti dell'ambiente geografico sugli esseri umani diverse da quelle. Questo come si può fare però? Torniamo al termine situazione. Si può fare solo se alcuni gruppi di persone costruiscono delle situazioni, quindi cambiano coscientemente diciamo, le condizioni all'interno delle quali loro stessi e quindi anche altri esseri umani vivono all'interno delle città, per cambiare questi rapporti, cioè per pensare a dei rapporti differenti, a delle relazioni differenti. E come si fa questa cosa? Ecco come uno dei modi possibili è quello che viene dopo, che si chiama deriva. La deriva. La deriva viene definita modo di comportamento sperimentale legato alle condizioni della società urbana, tecnica di passaggio frettoloso attraverso vari ambienti. Cambiare ambiente rapidamente, passare dall'uno all'altro, è una sperimentazione. Loro sostengono che sperimentando, per esempio passando rapidamente, addirittura frettolosamente, da un ambiente all'altro, sia possibile far emergere dei nuovi rapporti con l'ambiente urbano, che non ci sono prima. Si dice anche più particolarmente per designare la durata di un esercizio continuo di questa esperienza. Allora, ti ricorderò adesso che una delle sigle che firmarono l'atto costitutivo dell'internazionale situazionista nel Cipolotto si chiamava Comitato Psicogeografico di Londra. In realtà era un comitato inesistente perché era una sola persona, credo un francese che stava a Londra, ma loro la mettono così. Però il nome Comitato Psicogeografico entra già era già entrato nei documenti ufficiali dell'internazionale. Ma la cosa più importante è che i situazionisti nel corso della fine degli anni 50 e primi anni 60 sperimentarono realmente questa, diciamo, deriva psicogeografica, cioè facevano delle passeggiate, insomma, nella diciamo, città. Allora, anche qui non c'è nulla di molto nuovo. La figura della persona che passa da un ambiente all'altro senza uno scopo preciso, ma soltanto per farsi influenzare e quindi magari osservare, studiare, potenziare i suoi stati gli stati d'animo che gli derivano dal passare attraverso vari ambienti, non se la sono inventata i surrealisti, era una vecchia figura connaturata con la nascita delle città moderne, delle grandi, diciamo, città. Questa figura aveva, ricevette un nome particolare nella lingua francese, il flaneur, certo. E venne quindi, diciamo, il primo o il più famoso che, diciamo, ne parlò fu Baudelaire, non a caso. Flaner, sai che si bisogna scriverlo con una cella circonferenza sulla A, perché i francesi sono fatti così, sono pazzi. Flaneu, sì, così. Flaneu perché praticamente sarebbe al posto di questa A c'erano prima due un complesso di vocali, c'era A e A1, poi è stata contratta, semplificata, quindi quando c'era una cella circonflessa significa sempre che prima c'era un dittongo o qualche cosa che è stato compresso in un'unica vocale, sì, con una pinza. Quindi si chiama Flaneu. Questa figura del Flaneu quindi era stata già descritta da Baudelaire ed era stata, guarda caso, commentata proprio da Benjamin, un secolo, diciamo 70 anni dopo, esattamente nelle sue opere, in alcune opere, ma in particolare in Parigi, capitale del XIX secolo, che era la sua ultima opera. In qualche maniera i situazionisti non lo citano, ma la loro deriva non è altro che una trasformazione un po' più cosciente dell'attività del flâneur. Mentre nella città medievale non si passeggia, nella città medievale si va da un posto all'altro perché si fa parte di una corporazione per andare al lavoro, eccetera, eccetera, non c'è tempo lì perché c'è la chiesa, perché c'è il tempo religioso che occupa gran parte della vita. Invece con la secolarizzazione, con la laicizzazione e con l'allargamento anche degli ambienti, ovviamente, degli ambienti urbani, nasce questa possibilità di percorrere gli ambienti urbani senza uno scopo preciso, quindi svincolando come dire, l'attività di deambulazione, di camminare per la città, già il solo fatto di escludere una finalizzazione precisa indica una sorta di potenzialità, insomma, rivoluzionaria, sovversiva, di rapporto con l'ambiente, no? Cioè ciò che l'ambiente mi può dire se io lo svincolo certo, se prendo il metrò per andare a lavorare o per andare a scuola non sarà difficile, ma se dico oggi cammino, passeggio, adesso è molto più difficile, ma per l'epoca era, diciamo, dagli anni 30, agli anni 20, fino agli anni 50, fino dagli anni 60-70 dell'Ottocento, sino agli anni 50, grosso modo si poteva pensare che c'erano delle potenzialità, diciamo, nuove, di creazione di rapporti nuovi tra l'essere umano e l'ambiente. E qui arriviamo al punto urbanismo unitario. Allora, questa è un'attività importante della primissima fase dei situazionisti. Come viene definito l'urbanismo unitario? Teoria dell'impiego di insieme delle arti e tecniche che concorrono alla costruzione integrale di un ambiente, costruzione integrale, quindi siamo vicini alla situazione costruita che avevamo detto, no? Però se io questa situazione costruita la amplio e impiego delle arti e delle tecniche per costruire integralmente, quindi vuol dire entro certi limiti ex novo in qualche maniera, magari utilizzando quello che c'è già, però costruzione integrale di un ambiente in legame dinamico con esperienze di comportamento. In tutte queste cose vedi che ricorre in situazione l'idea che ci sia un rapporto tra i comportamenti degli esseri umani e le strutture architettoniche, ecco perché urbanismo, insomma, che circondano, diciamo, l'essere umano. In qualche maniera c'è l'idea che queste strutture architettoniche possano essere o perché ne costruisco di nuove, o perché trovo dei nuovi usi per quelle che già, diciamo, come dire, ci sono, rinnovo il mio rapporto, la deriva non è altro che una tecnica per creare questo rapporto nuovo con il mio ambiente, quindi per indurre in me, soggetto o insomma individuo o gruppo di individui, un rapporto con queste cose che sia diverso. Ed ecco quindi il legame di questa tematica precedente, quindi del rapporto uomo-ambiente, della psicogeografia dell'urbanismo unitario con la pratica che poi ha reso famosi i situazionisti, che è il détournement. Détournement è una parola francese che, come vedi, viene lasciata détournement, anche perché la prima E è accentata grave, détournement, detto che si pronuncia détournement, sulla prima E accentata perché loro mettono sì, così bravo. Allora, il verbo francese tourner significa, è sia un verbo attivo che un verbo riflessivo, significa sia voltare, je tourne une carte, giro una carta, sia voltarsi, je tourne vers droit, je tourne vers droit, je tourne vers gauche, giro a destra o a sinistra. Détourner vorrebbe dire rigirare. E che cosa implica adesso? Poi vediamo, insomma, che cosa vuol dire détourner? Vuol dire in qualche maniera deviare, cioè prendere una cosa e deviarla dal suo uso normale, dalla sua direzione usuale, eccetera, e spostarla in un'altra direzione. Ecco come si può realizzare, ecco che cosa succede quando faccio una deriva. Ecco che cosa succede quando, e succede in qualche maniera, c'è un détournement, che ovviamente, secondo gli situazionisti, va reso il più possibile cosciente. Détournement si impiega per abbreviazione della formula détournement di elementi estetici precostituiti. Per la prima volta compare il termine estetico. Il détournement è un détournement, cioè una deviazione, una reinterpretazione pratica, insomma. Io direi la parola italiana che si avvicina di più a questo détournement è forse deviazione, però si lascia il termine francese perché c'è un insieme di significati che sono più ampi. Però diciamo per aiutarci, allora è il détournement di elementi estetici precostituiti, cioè che cosa vuol dire? Ecco che, allora dice, prendiamo degli elementi che siano già estetici, cioè che siano già stati creati con una intenzione estetica, cioè di creare delle cose belle, quindi l'aspetto, per esempio, formale di un'architettura è un elemento estetico. Ovviamente un quadro, oggi possiamo dire un'installazione, un video, qualsiasi cosa. Sono degli elementi estetici precostituiti, noi li prendiamo e li deturniamo, li deviamo, li portiamo a voler dire qualche altra cosa o a favorire delle altre pratiche rispetto a quelle che loro favorirebbero di per sé. Integrazione di produzioni attuali o passate delle arti in una costruzione superiore dell'ambiente. Ecco, adesso è detto. C'entrano le arti, ecco perché loro sono così interessati all'arte, perché sono le arti quelle che di qualunque tipo, insomma, quelle tradizionali, quelle nuove che stavano uscendo, quelle come erano state sconvolte dalle avanguardie nei decenni precedenti, nei primi del secolo, ma sono le arti quelle che creano, come dire, la dimensione più forte di rapporto fra me e l'ambiente, perché creano una impressione forte sul, diciamo, soggetto, la forma di un'architettura, il modo in cui è costruita una strada, gli elementi decorativi di queste architetture, oppure direttamente le produzioni artistiche, i quadri, le cose, ma ripeto, oggi possiamo dire anche i video, le installazioni, tutto quello che più o meno è classificabile. Io prendo queste produzioni attuali o passate e le integro in una costruzione superiore dell'ambiente, cioè quindi vuol dire che ne faccio un uso diverso da come erano state concepite in passato, è un uso diverso delle cose che sono già state fatte. Allora, adesso se tu ci pensi bene, vedi quanta parte della produzione culturale contemporanea può essere ascritta a questo détournement. È il cut and paste, è è Adbusters, che poi ne parleremo, che prende le pubblicità tradizionali e le basta, cioè le cambia, oppure ne costruisce di nuove, finte, ad imitazione delle pubblicità, come dire, normali, per far passare un altro messaggio. Tutto questo si può dire che è détournement. I situazionisti furono quelli che per la prima volta concepirono questo uso deviato, questo uso alternativo, potremmo dire noi, diverso dallo scopo per il quale certe cose sono state concepite. Segue la cosa che si possono, che precedente il flâneur, per il resto è la margine, no, allora in realtà volendo adesso potremmo andare, perché in realtà c'è tutta una tradizione a cui non a caso poi i movimenti si riferiranno, che è quella della beffa, che è quella del carnevale, che è quella, e sono cose molto molto simili. Le pratiche popolari, diciamo, il carnevale cos'è? Il carnevale è una o più giornate, non pensare a come adesso, insomma, ma come è stato in passato, insomma, le sue origini storiche, in cui i ruoli sociali molto rigidi e molto fissi di una civiltà contadina, per esempio, che sono più rigidi e più fissi addirittura di quelli che ci sono nelle società urbane, vengono all'improvviso rovesciati, cambiati. Se questo è il carnevale, che cosa vogliono dire le maschere? Vuol dire che non c'è più la persona che ho visto sino all'altro giorno, c'è un'altra cosa, c'è una cosa davanti, non la posso riconoscere, è un'altra persona. In molte delle pratiche di carnevale storiche, non ora, eccetera, c'era per esempio l'idea di fare per un giorno, prendere un pezzente, un miserabile, un povero, un mendicante, e farlo re della, diciamo, città, dargli per un giorno le chiavi della città. È il rovesciamento. Quasi tutte le civiltà agricole conoscono delle feste di questo tipo, c'erano anche nell'antica Roma, si chiamavano i Saturnali, dedicati a Saturno, che non a caso era il dio del tempo lungo, quando cambiava la stagione, veniva celebrato questo cambio di stagione con una giornata eccezionale in cui per un giorno gli schiavi erano liberi e i padroni a volte venivano schiavizzati, diciamo, c'era questa inversione di ruoli. Quindi non c'è. Alle origini, verso la fine, quando matura la civiltà medievale in Europa, e però si sta già preparando qualche cosa che viene dopo, ci sono alcune persone, alcuni, come dire, personaggi che su questa tradizione del rovesciamento carnevalesco costruiscono delle grandi opere, il più importante delle quali si chiama François Rabelais. Sai come si scrive François Rabelais? Rabelais, François con la C, con la sedile sotto, François senza la E finale, Francesco Rabelais. Vabbè, che scrive questo libro che si chiama Gargantua e Pantagruel. La canzone Pantagruel è esattamente una sorta di enorme carnevale, no? Perché c'è il rovesciamento, non si parla più degli esseri umani alti normali, ma dei giganti, le cose di cui Gargantua prima e Pantagruel poi sono gigantesche, con tutti i paradossi che hai, per cui quando mettere a posto lo stomaco di Gargantua, che è una, o di Pantagruel, che è una indigestione, gli omini scendono dentro la bocca, cioè, Gargantua che va a studiare alla Sorbona di Parigi, litiga con i professori e poi si mette a pisciare sopra la Sorbona, questo perché Rabelais era stato cacciato dalla Sorbona. Cioè. Allora, c'è già una storia di questo tipo, c'è già un détourmane, il détourmane non è anche qui una totale, come dire, novità, però il détourmane era stato in qualche maniera ritualizzato. Se tu dici, va bene, c'è un detto latino che dice seme l'inanno, licet insanire, un giorno, una volta all'anno è lecito diventare pazzi, una volta all'anno, lo fai un giorno all'anno in modo che poi tutto il resto dell'anno invece obbedisci, fai le cose che devi fare, eccetera, eccetera. Ora, il détourmane non è altro che il tentativo di prendere questo rovesciamento dei valori e quindi questo détourmane, questo cambiamento di significato, di uso, eccetera, di vecchie pratiche artistiche o culturali in genere, e tentare di farlo diventare un po' più stabile, sapendo bene che non potrà mai diventare stabile del tutto, quindi che ci sia. Ma allora, in fondo, se tu pensi a una a una teorizzazione molto più recente, come quella fatta negli anni 90 da questo personaggio che si nascondeva sotto lo pseudonimo di Hakim Bey, la teoria delle TATS, Temporary Autonomous Zone, le zone temporaneamente autonome. Cos'è una TATS se non una sorta di détournement diciamo praticato per un certo periodo, di tempo? Una TATS non è altro che una tumana. Quindi vedi che c'è una, come dire, c'è una preistoria di questo concetto di détournement, ma c'è anche una storia, perché sono anche delle conseguenze. Ci mette qualche decennio, ma questa idea di détournement è una delle idee probabilmente più feconde nelle controculture o nei movimenti di opposizione. In qualche maniera è quello che ingenuamente negli anni i movimenti degli anni 70 chiamavano la festa. Fare la festa per i giovani di quegli anni, per i giovani politici, ma soprattutto per i giovani hippie, per questi, non era altro che costruire una TATS, stare un giorno, due giorni, tre giorni in un posto in cui trasformavi, o ti illudevi di trasformare, adesso non, diciamo, trasformavi i rapporti sociali, creavi rapporti, relazioni differenti tra, diciamo, gli esseri umani, ti sballavi con una, ovviamente, ma sballare voleva dire semplicemente assumere delle sostanze che favorissero questa, diciamo, novità, questo allargamento, questo cambiamento dei rapporti, diciamo, sociali. Quindi insomma questo détournement non è così nuovo, ma è anche così. Allora, nella parte successiva della definizione ovviamente ritorna l'ossessione dei situazionisti per la stabilizzazione eccessiva di questa cosa. Come loro rifiutavano il termine situazionismo, così è, allora, perché non si capisce bene perché dicono questa cosa. Allora, rileggiamo quello che abbiamo detto prima. Allora, questo testo è quello che hai qua, è questo. Allora, si impiega per abbreviazione della formula détournement di elementi estetici precostituiti, integrazione di produzioni attuali o passate delle arti in una costruzione superiore dell'ambiente. Ok, allora, e poi dice, in questo senso non può esserci pittura o musica situazionista, come non ci può essere un situazionismo, ma un uso situazionista di questi mezzi. Cioè loro costantemente insistono, Debord costantemente insiste sul fatto che non bisogna farli diventare una istituzione. Ah, ho fatto della musica situazionista. No, è impossibile fare della pittura, della musica situazionista. Posso fare un uso situazionista di cose già fatte o anche di cose che faccio io nuove, ma ben sapendo che sino a che, adesso usiamo il termine che Debord userà qualche anno dopo, sino a che vige la società dello spettacolo, io non posso costruire, non posso essere sicuro di avere liberato definitivamente tutte queste forze. Quindi devo continuare a fare détournement in continuazione, non mi posso fermare, perché ogni détournement può essere, virgolette, recuperato. Io gli faccio un détournement, ma dopo poco, diciamo, l'istituzione ufficiale della cultura, della politica, della società, eccetera, avrà trasformato di nuovo questo elemento, lo avrà integrato dentro il suo, e allora io dovrò farne un altro. Quindi non posso dire ho fatto una musica situazionista e sono a posto, ho fatto una pittura situazionista, no, ho fatto sempre qualche cosa che è borghese, insomma, che è all'interno della società borghese, però io posso di volta in volta, è una situazione, come dire, dinamica, che devo continuare, come una trottola. Work in progress, come una trottola, se non la faccio così, la farò girare, la trottola cade. In senso più primitivo, dice, il détournement all'interno delle antiche sfere culturali è un metodo di propaganda che testimonia l'usura e la perdita di importanza di queste sfere. Questa è una frase bizzarra, perché è anche un po', non si capisce bene, ma che cosa vuol dire? In un senso più primitivo, il détournement all'interno delle antiche sfere culturali è un metodo di propaganda. Significa che quando, come significa in qualche modo che spontaneamente gli esseri umani fanno sempre un détournement. È impossibile prendere una cosa vecchia, una cosa già stabilita, una teoria filosofica, un qualsiasi cosa, e applicarla pari pari. Siccome la situazione in quel frattempo è cambiata, io faccio sempre del detto romano e faccio del detto romano in maniera più specifica, cioè il detto romano a questo punto è una specie di strumento di propaganda, cioè perché io per propagandare qualche cosa, che cosa devo, io propagando qualche cosa che io, o che io penso che sia innovativo, o comunque che penso che sia un punto di vista differente, se no, come dire, non dovrei propagandarlo, no? Se tutti già lo sapessero, quindi io, come dire, propagando solamente delle, come dire, novità. Però, per poter presentare questa, come dire, novità, che cosa devo fare? Devo sempre avere una componente già nota. Se io ti parlo a te, in qualche maniera dovrò, combino, se anche ti dico delle cose nuove, insomma, dette in maniera più banale, più semplice, ogni, diciamo, novità linguistica non è che la ricombinazione in modo nuovo di parole vecchie che già ci sono. Quindi è una specie di detto romano. Io prendo delle robe che come ci sono già, le ricombino in un modo nuovo, ecco perché dice che è uno strumento di propaganda, che però testimonia l'usura e la perdita di importanza di queste sfere, cioè delle antiche sfere culturali. Anche questo è un pensiero espresso in modo molto, come dire, sintetico, ma abbastanza interessante, che come lo possiamo commentare, che cosa vuole dire questa cosa, che di per sé sembrerebbe... Vuol dire, attenzione, a furia di détourner, a furia di fare détournement, a furia di prendere delle vecchie sfere culturali, le chiamo, insomma, vecchi strumenti, vecchie cose, vecchie teorie, vecchie tecniche artistiche, qualsiasi cosa che sia già dato, che c'è già nella vita. Se io continuo a fare dei détournement, vuol dire che intanto si logorano queste cose, no? E si tira la corda. Quindi dopo un po' da questi, il détournement è implicito in questa frase, che se c'è una usura e una perdita di importanza di queste sfere, delle antiche sfere culturali, vuol dire anche, in qualche maniera, che ne verranno di nuove, che se ne creeranno di nuove, che il détournement è l'unico strumento davvero che io ho per creare delle situazioni culturali o degli strumenti culturali o dei punti di vista realmente nuovi. Tenendo sempre conto, ciò che ancora in questo primo numero è poco chiaro o è reso poco esplicito, ma del fatto che, come dire, c'è una specie di ambiente, di pressione dell'ambiente, insomma, no? Per cui certo io posso fare un détournement, ma c'è una sorta di elasticità al contrario come una molla, insomma, no? Che io la comprimo, poi la lascio andare, ma una volta che la lascio andare la molla tende a tornare come in posizione di riposo, insomma, no? Quindi c'è una pressione sociale della società verso l'immobilismo, verso la conservazione dell'esistente. Il détournement è una forza di rinnovamento, perché è una forza che ti fa vedere delle cose vecchie sotto una luce nuova, ma non dà nessuna garanzia di stabilità e di continuità. È una pratica che va continuamente rinnovata. Certamente bisogna essere capaci di cogliere il momento in cui da queste operazioni continue di détournement si creano poi delle cose nuove, ma questo adesso io non c'è scritto qua, ma lo aggiungo io. Il momento in cui si crea, come dire, una variazione qualitativa realmente stabile, cioè il momento in cui la molla si rompe, quindi devo prendere un'altra molla, o la stazione è cambiata stabilmente, io non lo posso mai sapere all'inizio, è impossibile prevederlo, perché ci sono una quantità di fattori concomitanti. Ecco perché il détournement deve essere deve continuare ad essere una pratica che si continua a praticare. Cioè, se io smetto di farlo, no, come dire, le tendenze alla conservazione, al ristabilimento dell'equilibrio, mi porteranno fatalmente verso una situazione in cui, vabbè, ok, tutto come prima, insomma. Passati i grandi cicli di lotte, le grandi esperienze di lotte, i grandi scioperi, le occupazioni, eccetera, eccetera, la gente tende a... Ed ecco quindi perché c'è la definizione successiva della cultura. Perché dopo questa definizione di Detourman c'è una definizione di cultura. Come definiscono la cultura i situazionisti? La cultura è riflesso e prefigurazione in ogni momento storico delle possibilità di organizzazione della vita quotidiana. Della vita quotidiana, quindi attenzione, come la intendono loro, la cultura non è qualcosa che si aggiunge, poi c'è la cultura. No, la cultura è semplicemente il riflesso e la prefigurazione, quindi sono le riflessioni che io faccio, ah ma guarda un po', le cose vanno così, sono... E la prefigurazione, potrebbero andare diversamente, ma non di una dimensione, degli elementi della possibilità di organizzazione della vita quotidiana. E quindi è il complesso dell'estetica, dei sentimenti e dei costumi, questa è la cultura, tramite cui una collettività reagisce sulla vita che le è obiettivamente data dalla sua economia. Quindi certamente che c'è un vincolo alla base, che è l'economia, quanta ricchezza circola, quanti beni circolano, qual è la disponibilità dei beni. All'interno di questi però ci sono diversi modi di organizzarla e questi diversi modi rappresentano, ecco perché loro sostengono il valore politico, no, e rivoluzionario dell'attività culturale, perché non la intendono come la letteratura, la musica separate la pittura, le arti separate dalle arti del mondo, ma come un elemento di organizzazione della vita quotidiana. E sanno benissimo che le forme culturali sono in transizione, tanto è vero che l'ultima voce si chiama decomposizione. Che cos'è la decomposizione? È il processo per cui le forme culturali tradizionali si sono autodistrutte sotto l'effetto dell'apparizione di mezzi superiori di dominio della natura, quindi una tecnica diversa. Le tecniche, cambiando, quando appaiono tecniche nuove, le forme culturali precedenti si autodistruggono, sono loro stesse che si fanno da parte, perché c'è bisogno di nuove forme culturali. Il che, sotto l'apparizione di mezzi superiori di dominio della natura, che permettono ed esigono delle costruzioni culturali superiori. Si distingue tra una fase attiva della decomposizione, demolizione effettiva delle vecchie sovrastrutture, che cessa, loro dicono, verso il 1930. Come vedi sono molto influenzati dalle avanguardie storiche. Cioè, loro dicono, tra la fine dell'Ottocento e i primi anni 30, siamo in Europa, realmente si sono demolite delle sovrastrutture, usano il termine sovrastruttura, non il termine marxiano, insomma, ma comunque si sono demolite delle vecchie forme culturali, è stata come dire, l'azione dell'organo, quindi c'è stata una fase attiva di questa decomposizione. Dice, dopo il 1930 c'è una fase invece di ripetizione che domina da allora. E qui arriva la stoccata politica. Il ritardo nel passaggio dalla decomposizione a delle nuove costruzioni è legato al ritardo nella liquidazione rivoluzionaria del capitalismo. In gran parte tutto il pensiero rivoluzionario, delle avanguardie artistiche, eccetera, in tutto il Novecento è dominato da questa idea. Avevamo una situazione favorevole per liquidare il capitalismo con la prima guerra mondiale, detto fuori dai denti, è così. Non ne abbiamo approfittato, perché l'unica rivoluzione che c'è stata è stata quella in Russia. I rivoluzionari russi, attenzione, quelli che i bolscevichi, eccetera, nonostante poi tutti i loro difetti e le loro cose, ma bisogna dirlo questo. Non hanno mai pensato né Lenin né Trotsky, soltanto Stalin molti anni dopo pensò. Stalin era, non a caso, prende il potere quando la rivoluzione russa è già bella finita, insomma, forse finisce pochi mesi dopo che sia, ma tutti i rivoluzionari hanno sempre pensato che la rivoluzione russa non si sarebbe potuta mantenere da sola, se non ci fosse stata una rivoluzione tutta quanta l'Europa. Ma la rivoluzione nell'Europa non ci fu. Questo creò quello che qui Sebor probabilmente definisce il ritardo nella liquidazione rivoluzionaria del capitalismo. Ritardo nella liquidazione rivoluzionaria del capitalismo. In qualche maniera tutto il lavoro, come dire, diciamo culturale, di rivoluzione culturale, quindi tutte le robe che ha messo prima, De Tourmans, eccetera, in realtà derivano da questa cosa. Sono cose che, di cui non avremo bisogno, sono cose che non avremo bisogno di fare, sono pratiche di cui non avremmo bisogno se ci fosse una vera rivoluzione. Cioè se complessivamente tutta la società fosse deflagrata sotto. Allora, si può fare una critica a questo modo di pensare, anzi credo che sia giusto farla. Tutto sommato vedi da qui che il situazionismo, i situazionisti, no, loro non volevano separarsi, ma i situazionisti sono ancora dentro un quadro molto tradizionale di, cioè la dinamica fondamentale è quella delle classi, cioè, non si rendono conto e non si rendevano conto, forse era difficile rendersene conto negli anni 50, che il capitalismo aveva dalla sua una forza di resistenza e di una intelligenza anche di resistere alle trasformazioni rivoluzionarie, insomma, no? Cioè, e questo si vide già subito con la rivoluzione russa. Effettivamente il fatto che la rivoluzione in Europa non ci sia stata, Lenin e Trotsky, quelli che obiettivamente, non quelli che fecero la rivoluzione, perché la fecero gli operai e i contadini russi che non volevano più fare la guerra, loro fecero la rivoluzione, però poi Lenin e Trotsky furono quelli che la organizzarono e quindi comandarono le cose. Lenin e Trotsky erano convinti, se noi facciamo la rivoluzione abbiamo vicino la Germania, ma la Germania è il paese capitalistico è quello più sviluppato, è il paese più capitalista del mondo in quel periodo, era ancora più forte da un punto di vista della struttura produttiva degli Stati Uniti, stava già superando l'Inghilterra, eccetera, era la Germania ed era il paese in cui c'era il movimento operaio più forte, il partito socialdemocratico più forte. Certo, erano socialdemocratici, non erano rivoluzionari, ma questo era il, come dire, il dramma per noi entrambi. Però dal punto di vista dei rapporti di classe, spiace, ma la miseria, la nostra rivoluzione russa, noi siamo un paese arretrato, erano convinti, la classe operaia era piccolissima nella Russia, era concentrata in pochissime città, San Pietroburgo, Mosca, un pochino, insomma, in pochi altri posti, ma la stragrande maggioranza della popolazione russa erano contadini, e la rivoluzione loro la fanno perché era 4 anni, era dal 1914 al 17 che stavano in guerra, le campagne erano andate in rovina, il contadino può fare la guerra per 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, insomma d'inverno, l'estate deve tornare, se non torna, se durante l'estate, se in primavera non torna a casa a raccogliere il grano o le patate o gli asparagi o quel cazzo che ha coltivato, insomma, cioè è fottuto, il grande dramma fu che a un certo punto l'esercito russo era minato al fondo da questo anarchismo di guerra, quindi dice basta, non possiamo più. Il primo che gli dice smettiamo la guerra, e i sovietici dissero basta, smettiamo la guerra e facciamo la rivoluzione per tornare tutti a casa, e tutti, cioè questa è la vera ragione per cui vinse la rivoluzione russa, e che corrispondeva a degli interessi immediati reali dei contadini. Ma non poteva essere una rivoluzione proletaria matura, perché non c'era il proletariato era debolissimo, era troppo debole. Lenin e Trotsky, il partito bolscevico, pensarono di forzare la Costituzione, però attenzione, non erano così stupidi. Pensarono, la rivoluzione russa può funzionare se funziona come scintilla, come innesco per la rivoluzione nei paesi capitalisti avanzati. È la Germania e poi la Francia e l'Inghilterra che devono fare la rivoluzione, ma la Germania era il loro, dice, le masse proletarie tedesche, il proletariato tedesco era molto più forte numericamente e anche percentualmente rispetto alla popolazione di quello russo. È il proletariato tedesco che si rivolterà, farà la rivoluzione, è soltanto diventando internazionale che la rivoluzione potrà vincere e anche noi, poveri russi, arretrati, bla bla eccetera, avremo dato il nostro contributo, saremo importanti perché saremo stati i primi che l'hanno fatta, ma però poi devono essere i tedeschi che ci danno il cambio, sono loro la vera guida. Questa cosa già nel 1918-19, dopo pochi mesi, un anno dopo, nel 21, quando viene fondata la terza internazionale comunista, è già chiaro che non ci sarà nessuna rivoluzione. Lenin e Trotsky l'hanno già capito e stanno pensando a come fa. Poi dopo Lenin muore 2 anni dopo e quindi Trotsky viene fatto fuori da Stalin e quindi siamo a posto. Insomma. Però già loro cominciavano a pensare come cazzo facciamo a resistere sino alla prossima ondata rivoluzionaria, perché era chiaro che quella era finita, che l'ondata rivoluzionaria che si era aperta con il 17, insomma, quella creata dalla prima guerra mondiale era bella che è finita. Tutto questo e molto altro ci sta dietro a questa apparentemente, tra la frase, il ritardo nel passaggio dalla decomposizione a delle nuove costruzioni è legato al ritardo nella liquidazione rivoluzionaria del capitalismo. Quindi, insomma, in qualche modo il pensiero situazionista è ancora un pensiero tradizionale, marxista, eccetera, che però astutamente è capace di, come dire, nonostante, o forse perché usa questi elementi tradizionali in maniera intelligente, cioè in maniera creativa, sono capaci di inventare degli strumenti che magari in quegli anni lì sono stati, ma che poi sono stati messi alla prova pratica nel 68, perché obiettivamente una parte dei comportamenti del movimento degli studenti e anche dei lavoratori del proletariato giovane degli anni 60 ha fatto uso di tecniche di così, magari senza neanche sapere che l'avevano detto gli Stati Uniti, ma questo. E soprattutto poi non è un caso che c'è stata una, c'è oggi, insomma, negli anni, diciamo dagli anni 90 in poi, insomma, no? Cioè da quando è, dopo la sconfitta dei vecchi movimenti degli anni 60-70, c'è stata la nascita, è circa 20 anni che stanno nascendo movimenti nuovi con alti e bassi, eccetera, ma insomma, diciamo da Seattle in poi, insomma, questa è una fase nuova dei movimenti anti-globalizzazione, eccetera. In questi movimenti l'utilizzo di tattiche di questo tipo, di strumenti di questo tipo, di forme di azione, anche di forme di vita di questo tipo è molto cresciuto. Oggi molti, come dire, i movimenti fanno uso, ed è per questo che i situazionisti appaiono così attuali. Io adesso sto cercando di indicarti, come dire, le componenti di attualità delle pratiche situazioniste e quelle invece diciamo tradizionali, insomma i loro legami con una tradizione che ormai è definitivamente, insomma, sorpassata. Certo, ci sono ancora i gruppi marxisti, figuriamoci, gran parte, però insomma nulla nelle pratiche dei movimenti più interessanti degli ultimi 30 anni corrisponde più ormai alla teoria marxista, insomma. E mentre gli Stati Uniti sono pienamente dentro a questa, cioè è una cosa un po' paradossale, insomma, no? Che loro siano, però sai, questo succede sempre quando le trasformazioni sono sempre delle cose che hanno delle componenti vecchie e delle componenti nuove, è impossibile che, cioè, come dire, non esiste che le robe nascono nuove e totalmente prive di riferimenti alla parola, ci sono per forza sulle cose. Ora, per oggi possiamo chiudere, ma la prossima volta vedremo invece che mi pare nel terzo numero Allora, nel secondo numero c'è una teoria della deriva più ampia, c'è un coso più lungo che ha firmato De Boer, in cui si parla della deriva, e c'è sempre questa pratica dei stazionisti, che è uno dei loro tratti distintivi. Prendono delle foto o dei pezzi di film della contemporanea o di poco. Bisogna ricordare che De Boer era un cineasta, ha fatto dei film un po' strani, ma faceva film, insomma, questa era la sua attività artistica, era fare dei film. Allora, si prendono delle immagini e gli si cambia, questo è un détournement, e gli si cambia, diciamo, contesto, gli si cambia in più, gli si cambia dialogo. Qua c'è una foto che non sappiamo di chi sia, ma probabilmente è una foto comunque contemporanea, eccetera, e c'è un dialogo tratto dai Tre Moschettieri di Dumas. Che quindi evidentemente che non c'entra nulla con la cosa, no? Quando negli anni successivi De Boer fa un film che si chiama La società dello spettacolo, esattamente come il suo libro, cosa fa? Semplicemente c'è una voce fuori campo che legge dei pezzi del libro ed è un montaggio di immagini di film di Hollywood, eccetera, eccetera. L'hai visto? Un pezzo, sì. Un pezzo, cioè allora, la carica dei 100, no, la carica dei 600, sulla battaglia di Balaclava, cioè, ci sono varie, oppure scene d'amore, commentate con questi. È un esempio, a volte un po' noiosetto, non è che fosse, di détournement, però insomma, bisogna valutare. Mentre nel numero 3, nel bollettino numero 3, quindi che è del 1959, quindi è l'anno dopo, siamo ancora prima del 1960, è appena fondata, abbiamo, ecco, un nuovo testo, che credo sia questo, infatti, Détournement come negazione e come preludio, che è questo primo testo e su cui andremo a discutere, a chiacchierare la volta prossima e poi parleremo d'altro. Qui ci ho messo pochi testi, perché qui spiega un po' meglio che cosa intende lui per Détournement, e poi passeremo a cercare di capire, adesso non è che si può fare, insomma, però tanto per introdurre questo tema. Ci siamo? Sì. Siamo abbastanza stanchi? Sì. No. Come no? Dai, ormai sono le 12, è mezzogiorno e 10. Sì,